alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Claudio Bigagli legge Il deserto della Libia di Mario Tobino. Questo episodio me lo raccontò Marcello pochi giorni prima che morisse davanti a Tobruk. Mi ricordo che mentre parlava ogni tanto faceva echeggiare una risata, come con questa tentasse di nascondere un pudore che di continuo l'assariva. Lo riferirò nei termini più brevi. Il deserto, come si è ripetuto, è una pianura non benedetta da nessuna erba. Infinito si estende ogni suo raggio. Due giorni prima dell'avvenimento che sono per riferire, la sezione di sanità aveva subito nel mezzo della notte illuminata dalla luna un preciso bombardamento e mitragliamento. Il primo a morirvi fu il capitano. Aveva sempre fatto lo spavaldo e la scheggia gli tagliò la testa. Marcello, che gli era vicino, pur in quella fiammata che l'accecava, dopo, ripensandoci, gli sembrò di avere per un tempuscolo di secondo osservato il corpo del capitano ancora in piedi, ma senza testa. Era successo in quella lunga notte che prima si erano sentiti rumori armoniosi dei motori aerei che si avvicinavano. Il capitano, come al solito, la cena era da poco finita e tutti erano intorno alla tavola. Il capitano, che da poco era in marmarica e faceva l'audace, forse perché non aveva potuto ancora considerare il luogo e quella guerra, o forse perché aveva animo come tanti se ne incontra, al rumore nemico subito si alzò come li volesse sfidare. Lui, medico, disarmato della vasellina, lui sulla terra, si fece fuori e alzò il viso verso quei rumori del cielo. Il tenente Marcello, che continuava a fare lo spettatore, lo seguì, forse più attento a quel personaggio che agli aerei nemici. Ma questa volta gli aerei non se ne andavano dritti ad altri obiettivi, venivano proprio alla sezione, che era tutta bagnata come un fiore bianco dalla luna. Il primo aereo scese tranquillamente a pochi metri dalle tende, era tale la visibilità che i razzi erano inutili. Il capitano, fieramente retto, da terra lo fulminava. L'aereo tirò una bomba che esplose vicino al capitano e gli staccò la testa. Il tenente Marcello smise di fare lo spettatore e si trovò in terra imbambolato. Allora cominciò la sarabanda, cioè gli incendi e il mitragliamento dei recuperati in camicia bianca che scappavano per il deserto. Qui veramente il tenente Marcello, a quanto mi disse, non si ricordava bene. Vide tutto come attraverso l'acqua, come un nuotatore sott'acqua che tiene gli occhi aperti. Poi all'alba si svegliò completamente e cominciò con fatica a fare i conti. Fu una notte lunga, durante la quale notò quanto era immobile e indifferente la luna. Altri due medici della sezione morirono, e con il capitano erano tre. Così Marcello era rimasto l'unico medico, benché imbambolato per le percosse dei sassi che la bomba scoppiando aveva alzato contro di lui. La Marmarica non è composta di sabbia, ma di un fitto pietrisco. Notte Marcello vide anche come una bella al balcone contempla gli infuriati corteggiatori alcune contraddanze, cioè soldati precedentemente feriti che erano in cura alla sezione, che trascinandosi fuggivano lontano dalle tende, e gli aerei che erano scesi a 30 metri si divertivano a disegnarli con le traccianti finché quelle sagome rimanevano immobili. Ma insomma, a causa di quel bombardamento, Marcello si trovò solo a comandare la sezione e durante il primo giorno tutti, nuovo comandante e soldati, furono occupati a cupamente sotterrare i loro compagni. Ma subito la notte dopo, come al solito, arrivarono dal fronte di Tobruk nuovi feriti e la sezione, anche se scheletrita, riprese a funzionare, che non ve n'erano altre. Già il comandante Marcello aveva telefonato al comando di divisione le condizioni in cui si trovava la sezione. E di là, attraverso il filo, avevano risposto che si continuasse, che anche il comando era stato bombardato e non potevano dare alcun aiuto, si continuasse come meglio si poteva. Comunque all'alba del nuovo giorno Marcello si partì dalla sezione e arrivò al comando per dichiarare personalmente al signor generale le condizioni della sezione e quali urgentissime cose erano almeno da provvedere. Ma il fronte si era mosso. Era per arrivare un'altra ondata nemica che avrebbe di nuovo ricacciato gli italo-tedeschi in Tripolitania. Se le nemiche armi terrestri erano quasi ferme, già quelle dell'aria erano in fervidissima attività e presto, era ormai chiaro, vi sarebbe stato frastuono da tutte le parti. Infatti, mentre Marcello era su un terrazzino di una delle baracche del comando ad aspettare che il generale lo ricevesse, cominciò a svolgersi un interessantissimo episodio di guerra. A circa 500 metri dal comando erano raggruppati i carri armati della divisione. Su questa vicinanza c'era stato anzi un pettegolo e ingiustificato commento. Qualcuno aveva sussurrato che il generale si tenesse così vicino ai carri armati perché rapidamente lo difendessero in un improvviso attacco di carri nemici provenienti dal profondo deserto. Cosa possibile, perché il deserto, essendo come un mare, non v'è una linea o una catena. Il combattimento può arrivare da ogni raggio e nessuno è proprio in prima linea e tutti lo sono. Nessun esercito potendo tenere delle ferme posizioni se non lungo la costa, cioè lungo la linea dove il deserto finisce. C'erano appunto stati dei malevoli commenti su questa invece giustificata disposizione del generale, che aveva sì il suo comando lontano dalla linea dell'assedio di Tobruk, ma aveva alle spalle e ai lati l'immenso deserto, privo assolutamente di difese, e da quelle direzioni potevano sopravvenire i nemici e o ucciderlo o farlo prigioniero, privando la divisione della sua testa. Comunque, alla distanza di poco più di 500 metri, sostava il raggruppamento carri armati, che erano tinti del pallido colore del deserto, e sopra avevano una rete per accrescere il mimetismo, sicché agli aerei ricognitori fosse difficile distinguerli. Il tenente Marcello era sul terrazzino dal quale vedeva perdersi il deserto e rimirava con affascinata distrazione quello spettacolo privo di verde e di ogni altro colore, quando in mezzo ai carri armati scoppiò un proiettile. Mentre saliva il fumo e la sabbia, e si era destata l'attenzione di tutti, cioè dei soldati, dei carri e degli ufficiali del comando, e ciascuno in fretta cercava di capire ciò che era stato e dove, di dove, arrivò sul terrazzino dove era Marcello il capitano tedesco addetto alla stessa divisione. Infatti i tedeschi, subito dopo l'arrivo in Libia, avevano messo, poco fidandosi degli italiani, presso il comando di ogni divisione un loro uomo con la scusa ufficiale che servisse di collegamento, ma per la verità saputa da tutti per controllare. Ecco infatti sul terrazzino subito apparire il capitano tedesco a vedere ciò che era quello scoppio. E quasi insieme con lui vennero il generale italiano e il capo di stato maggiore e un altro ufficiale più o meno trafelati. Per il capitano tedesco, il tenente Marcello aveva una certa simpatia perché poco tempo avanti si erano per caso incontrati nello stesso comando e messisi a discorrere sulla guerra, dapprima da parte di Marcello con titubanza, poi sempre più apertamente, gli aveva comunicato certe sue considerazioni sulla guerra di movimento del deserto, come cioè la si deve condurre questa guerra e quali qualità siano preferibili che abbiano i soldati. Il capitano tedesco non solo si era interessato, ma accalorato. E si fece spiegare e illustrare, e ripeteva domande, e perfino a Marcello sembrò che gli fosse nata un'aria di stupore verso di lui, tenente medico che così si interessava alle leggi della guerra di movimento. Né poi si erano più rivisti, e a Marcello era rimasto per quel tedesco un ricordo piacevole mescolato a un senso di invidia, che cioè loro si interessavano e i nostri no. Infatti, precedentemente Marcello aveva tentato di avviare discorso col generale italiano sulla guerra nel deserto, ma come Marcello aveva cominciato a esporre quelle idee, che del resto Wavell aveva applicato con matematica, il generale italiano, offeso, lo aveva rimproverato davanti a tutti, aggiungendogli che si occupasse della medicina. E dunque su quel terrazzino, appena Marcello vide il capitano tedesco, non mancò di salutarlo col viso lieto, ma il capitano accigliato appena rispose che voleva sapere di quell'esplosione tra i carri armati. Erano due giorni che un fitto ghibli tesseva il cielo, e perciò la vista era molto ostacolata, e infatti i carri armati, sì, si distinguevano perché a poca distanza, e si notava il fumo e la sabbia alzati dall'esplosione, ma solo perché colori più densi nel colore d'ocra che viveva per ogni punto dello spazio, come masse più dense in una generale tinta confusa. Poiché dunque c'era il Ghibli, era impossibile che quell'esplosione fosse la dipendenza di una bomba staccata da un aereo, e non era possibile perché nessun ronzio aereo era stato ed era avvertito. Ma di più perché nel Ghibli gli aerei non viaggiano, perché per la sabbia che ammatassa tutto il cielo non ci vedono, non possono esplorare, non sanno lanciare bombe e perfino il loro campo d'atterraggio lo ritrovano con gran difficoltà. In quel momento, sopra i carri armati, scoppiarono altri proiettili, e allora anche dal terrazzino si capì la verità. Una batteria nemica con cannoni mobili era partita dal confine egiziano e percorrendo nell'interno il deserto era venuta a sbucare in prossimità del comando, del quale era precisamente informata per la ricognizione aerea dei giorni precedenti. Aveva piazzato i cannoni e all'inizio di quel giorno cominciava la sua azione. Ma perché colpiva con tale precisione i carri armati? Questo ancora non si spiegava. C'era il Ghibli, nessun aereo poteva con la radio dall'alto indicare alla batteria inglese l'esatta posizione. Era forse il caso? Le batterie inglesi, informate da precedenti ricognizioni aeree, avevano mirato all'incirca e per caso colpito giusto proprio i carri armati che ogni giorno, pur rimanendo nei dintorni del comando, si spostavano? Il generale italiano, con i suoi ufficiali, abbandonò subito il terrazzo osservatorio e corse a telefonare al comandante dei carri di far manovra, allontanare i carri di 2 chilometri, distanziarli uno dall'altro e stare in attesa di ordini. Sul terrazzino erano rimasti solo Marcello e il capitano tedesco, che era attentissimo a come si stava svolgendo quell'episodio, il volto con una piega cattiva e insieme amara. Dopo poco che si era iniziato lo spostamento dei carri armati, le esplosioni cessarono. Dal terrazzino si vedevano le processioni di sabbia alzate dai cingoli procedere verso il punto ordinato dal generale, direzione nord-est. Si era fatto uno strano silenzio. Il capitano tedesco seguiva i movimenti senza alcuna distrazione. A voler essere immaginosi, il suo volto poteva essere paragonato a una prua di bastimento. Marcello, ogni tanto di sfuggita, guardava il suo profilo. E come i carri si stavano ormai accomodando nel nuovo spazio, i nemici, invisibili dal profondo deserto, come avessero avuto fino allora l'occhio su di loro e avessero aspettato che si assestassero per colpirli più comodamente, spararono e i proiettili d'artiglieria caddero tra i carri e sopra i carri, alcuni ferendoli, come già nella prima scarica era successo. Il capitano tedesco, come una serpe l'avesse morso, si voltò per la prima volta verso l'italiano Marcello. «Eccoli, eccoli, siete voi, traditori!» E aveva steso il braccio verso quegli scoppi e quelle dense e tonde nubi di sabbia e sibilava da ogni angolo del viso disprezzo e rabbia. Qui successe a Marcello come alle ragazze innocenti, che per un non nulla impacciate di pudicizia, se sferzate, ti verranno poi ferme e sicure. Infatti Marcello, che aveva simpatia per quel capitano forestiero, come aveva visto quella seconda salve, anche essa appropriata, aveva avuto velocissimi alcuni accoppiamenti di immagini, e il risultato gli era parso così vero, che proprio in quel momento che riceveva dal tedesco offesa, era per comunicarglielo. Si sappia che Marcello non era uno stinco di santo, e in quella deserta ma infuocata Marmarica lo sarebbe stato ancor meno, se non che non c'era neppure un'occasione, che mai si vide, neppur da lontano, in quella guerra marmarica, l'ombra di una sottana. Pur dunque il genio popolano crea dal nulla, cioè sa l'inestinguibilità della vita, e un certo soldato Piermurizzi, forte e alto e con gli occhi come l'argento liquido e con l'altissima qualità di vedere tutto e starsene silenzioso, tranquillamente gli propose, ma già erano stati insieme al pericoloso campo di aviazione e si erano divertiti a distruggere anarchicamente le abbandonate cristallerie nella lussuosa mensa ufficiali di aviazione, di andare col camioncino della sezione fino al pozzo situato non più di 6 chilometri verso sud, nel profondo deserto. Marcello a questa proposta guardò Piermurizzi con interrogazione, sembrandogli già di capire. Pier Morizzi spiegò sardonico che i pastori arabi, che si erano per la guerra allontanati da Tobruk, dovevano pur venire lì a dissetare il gregge e con loro si portavano le donne. Marcello e Pier Morizzi partivano con il camion nel pieno fuoco del sole, a luna, quando il sole era più vicino al deserto. Pier Morizzi stava dietro col fucile mitragliatore, Marcello lo guidava. Appunto per questi pazienti appostamenti, Marcello conosceva in ogni punto il cerchio di quel deserto, depressioni, addensamento di lividi sterpi, cose in esso abbandonate. Appunto in quel momento che il capitano tedesco lo ingiuriava aggiungendo «Voi comunicate!», volendo con ciò chiaramente dire che erano gli stessi italiani a comunicare con la radio al nemico la posizione dei carri e il loro spostamento, appunto in quell'istante Marcello era per prorompere quasi con gioia «Dietro il carro rimorchio! Lì ci deve essere l'inglese, dietro il carro rimorchio!» E se il capitano tedesco si fosse interessato, Marcello avrebbe ben volentieri aggiunto che a circa 2 chilometri dal comando, di fronte proprio a quel terrazzino, c'era, abbandonato nel deserto, un rimorchio di camion che di lì si intravedeva solo se si sapeva che c'era. Un rimorchio che per il tanto tempo che sostava in quel luogo aveva preso l'esatta tinta del deserto e quella mattina, a causa del ghibli, era ancora più invisibile. E Marcello, spiegando meglio, avrebbe aggiunto che probabilmente la ricognizione aveva individuato, con l'ingrandimento fotografico, quel rimorchio. E allora, le batterie inglesi si erano avvicinate nella notte fino a circa 10 chilometri e si erano piazzate. Poi avevano portato un loro soldato fornito di radio dietro il rimorchio dal quale erano individuabili i carri armati. Come era venuta alla luce, il soldato inglese, nascosto dietro l'abbandonata carcassa, aveva comunicata l'esatta posizione dei carri e le batterie precisamente avevano sparato. Come i carri si erano spostati, aveva comunicato lo spostamento e le batterie di nuovo avevano colpito preciso. E Marcello tanto più sicuramente aveva pensato così, in quanto conosceva gli ufficiali della divisione, e non uno ne credeva con l'animo e la fantasia capace di comunicare al nemico. E così i soldati dei carri, che comunicando uccidevano loro stessi e i compagni. Per questo Marcello, udendo le parole pronunciate dal tedesco, si imporporò come una donna onesta che riceve insulto. E se ne stava ora nel terrazzino incertissimo e furente, facendo tristi considerazioni su di lui, italiano, in quella falsa guerra, mentre il tedesco aveva fatto di nuovo il viso come una prua legnosa diretta a guardare la crescita di quell'episodio. Infine Marcello si decise. Si avviò per andarsene, anche e innanzitutto perché alla sezione era rimasto l'unico medico e qualche ferito dei carri colpiti poteva essere per arrivare. E mentre passava dietro il dorso ancora ligneo del tedesco, quasi senza avvedersi che stava pronunciando parole, disse «Voi non conoscete il deserto. Davanti a voi, a 2 chilometri, c'è un rimorchio di camion. Nascosto lì dietro c'è l'inglese con la radio. È arrivato stanotte. Di lì dietro, che è il centro della battaglia, comunica tutti i movimenti». E salutò battendo i tacchi, come un servo. E non ricevette risposta, benché il tedesco sapesse l'italiano a perfezione. E il povero Marcello, mentre si allontanava, già considerava la sua dabbenaggine, che non aveva detto «forse», «probabilmente», «può darsi», aveva invece proferito parole imperative, come lui, quale il sole, sapesse tutto, e continuò ad allontanarsi in quel modo così frequente negli italiani, abituati dall'eterno ad avere timore e a indovinare ogni passione. Ma come il nostro Marcello arrivò alla sezione, si dimenticò il tedesco e ogni battaglia, che i feriti c'erano già e da solo dovette disbrigare. E poi, disposto dalla natura a immedesimarsi negli uomini, si unì a coloro che avevano dolore. E già il sole aveva perso vigore quando uscì dalla baracchetta chirurgica con gli occhi cerchiati. ma lassù al comando erano continuate le cose. Era successo che il generale italiano, vista la seconda scarica, aveva ordinato ai carri di spargersi ancora, di più distanziarsi uno dall'altro. E dopo poco si era visto che, come il proiettile fosse guidato da un ago invisibile, cadeva nelle vicinanze proprio sopra questo o quel carro armato. E intanto era anche successo che il capitano tedesco, subito dopo che Marcello era sparito, aveva telefonato alla compagnia tedesca che era sita intorno all'assedio di Tobruk, ordinando di mandare immediatamente, col mezzo più rapido, una pattuglia nella direzione nord-est, 2 chilometri davanti al comando di divisione, dove c'era un rimorchio di camion, ed esplorarvi se c'erano nemici. La pattuglia immediatamente era andata, si era avvicinata al rimorchio, e quando era a pochi passi era stata ricevuta dal fuoco, essa stessa aveva sparato, e l'inglese era morto sopra la sua radiotrasmittente. Dopodiché la batteria inglese tirò confusamente sopra i carri e poi si tacque. Allora il generale italiano, quando seppe che era stato il capitano tedesco a dar ordine di esplorare il rimorchio, si sbalordì, lo guardò come un fulmine di guerra, si avvicinò a lui correndo, con la mano tesa, congratulandosi per aver scoperto tutto. Ma il capitano tedesco disse: «No, tenente medico». E poiché il generale era rimasto confuso, a mezz'aria ripeté: «Tenente medico». E ripeté sorridendo che era stato il tenente medico a dirgli tutto. Il generale non capiva, tanto più che al comando non c'era nessun tenente medico e quella mattina non si era affatto accorto di Marcello. Allora il capitano tedesco cominciò di nuovo ad adirarsi, e poiché erano sempre insospettiti che i generali italiani volessero subdolamente sabotare, protestò che voleva rallegrarsi, stringere la mano al tenente medico, che era onorato di averlo come commilitone e che del resto si ricordava delle sue osservazioni sulla guerra di movimento. Disse che ci voleva parlare. Il generale non sapeva chi era mai questo meraviglioso tenente medico e ne domandò ai suoi ufficiali, che ne sapevano uguale. Allora al comando cominciarono le interrogazioni per sapere il nome di questo tenente medico, e fu il tenente Maggini che, orecchiata la cosa, disse, senza essere stato interrogato, che doveva essere il tenente Marcello. Infatti di lì a poco si precisò che era sicuramente il tenente Marcello. Di qui nacque l'affare della medaglia. Poiché il capitano tedesco, stupito che al comando non si conoscesse un tale tenente, dichiarò con una vena di disprezzo che nell'esercito italiano si teneva da parte chi aveva cume. E il povero tenente Marcello laggiù, solo medico fra tanti feriti, coi suoi soldati che avevano ben capito che tutta quella tempesta di aviazione annunciava una nuova avanzata e forse un tristissimo futuro, il nostro Marcello si era completamente dimenticato di ogni capitano tedesco e rimorchio, e aveva anche lui considerato che se le artiglierie nemiche cercavano di colpire i carri armati, uniche vere armi della guerra di movimento, e spargeva con l'aviazione il terrore per ogni dove, e perfino sulla sanità, senza dubbio, a quelle nubi sarebbe succeduta la tempesta. Ed ecco, 2 giorni dopo, saranno state le 3 del dopo pranzo, mentre il Ghibli continuava il suo furore e la sezione era tutta rinchiusa dentro le tende, arrivò alla buca di Marcello il suo attendente Benedetto, che trafelato subito pronunciò: «Signor tenente, in fondo all'accampamento c'è un mucchio di ufficiali, vogliono lei». Si sa come succede in prima linea, che ritorna la libertà e la strafottenza anche negli italiani, poiché è la morte che ha il vessillo del comando. Marcello era sdraiato sul suo lettino, non si scompose, bestemmiò, lentamente alzandosi, contro quegli inopportuni che venivano ad accrescere le noie, e seminudo, come si era soliti in Marmarica, con lo scacciamosca in mano, come si era soliti, si avviò, così sbracato, a quella volta. L'accampamento della 31ª era stato messo in una lieve depressione del deserto perché fosse più difeso dalle artiglierie. In fondo a quella leggera discesa era infatti in attesa un drappello di ufficiali. Per arrivare a loro Marcello doveva percorrere circa 200 metri, e percorrendoli e avvicinandosi ebbe agio di immaginare, fantasticare e infine acutamente temere. La sezione era deserta, i soldati rinchiusi dentro le tende. Marcello capì che dagli spiragli molti guardavano, ma la loro vecchia esperienza di soldati li faceva stare rinchiusi, almeno finché non fossero stati direttamente chiamati. E Marcello era circa a metà strada quando una folgore della immaginazione gli fece sparire improvvisamente ogni imbambolamento. Gli sorsero come irregolari, estremamente irregolari, le sue azioni con Pier Morizzi. E quegli ufficiali in attesa erano il tribunale. Erano venuti a condannarlo per quegli agguati intorno ai pozzi. Mentre continuava a procedere, sentì con sicurezza che erano venuti solo per quello, per leggergli la condanna e dare l'esempio davanti ai soldati sul campo. Paurosamente, come fa un moscone che folle si agita nella stanza dove è entrato e si sente rinchiuso, così Marcello vorticò nella mente, e fu in quel punto che si accorse di procedere con il ridicolo scacciamosche invece che con un'arma per difendersi selvaggiamente, dato che non aveva altra soluzione. Ormai era a pochi passi. Si irrigidì davanti al generale. Il ghibli maledetto marmarico rendeva tutti come fuligginosi. Il capitano tedesco era tra loro ed era l'unico ad avere un'aria di festa, e anzi sorrise chiaramente rivolgendosi a Marcello, che lo vide, e allora il suo terrore crollò in un battito, come il buio fugge da una stanza quando di notte vi si apre la luce elettrica. Subito cominciarono. Anche quella fretta manifestava che il generale e gli ufficiali erano preoccupati di ben altro. Il generale si mise a leggere un bigliettino, molte parole le portava via il vento. Marcello riuscì a capire che si accennava al recente bombardamento della sezione. Sentì anche la parola esemplare. Notò qualche volto di ufficiale italiano guardarlo con interrogazione. Di nuovo distinse il capitano tedesco che gli sorrideva. Intanto, con lo scacciamosche rigido come un moschetto, rimaneva sull'attenti. E il generale si zittì. Marcello, come ultime parole, udì «al valore» e poi «ecco onore, esercito italiano». Le folate del Ghibli accompagnavano il silenzio che sovrastava. L'aiutante maggiore stava scartando qualcosa, un piccolo oggetto. Ciondolò la medaglia. Fu portata al generale, che la prese in mano. Si assicurò dello spillo, si avvicinò a Marcello e gliela appese sulla camicia. Marcello, mentre gliela appendeva, ritirò un po' il petto per timore che lo pungesse. Le mani del generale erano piccole e lentigginose. Marcello si ricordò di una tarantola che ogni estate compariva di notte sulle pareti della sua casa. Appena la medaglia fu appesa, si capì che la cerimonia era finita. Ci fu subito un rimuginio tra gli ufficiali per avviarsi al camion che li aveva portati lì ed era fermo a pochi metri. Il generale e altri ufficiali strinsero la mano a Marcello, il capitano tedesco gliela strinse con effusione. Furono presto tutti a posto sul camion. Marcello, prima di allontanarsi, aspettò che il camion gli passasse davanti per salutarli nuovamente. Quando furono un poco lontani fra i nembi del ghibli e della sabbia alzata, i soldati della sezione sbucarono le teste e poi vennero fuori. Naturalmente la mozione della medaglia non parlava affatto del consiglio dato al capitano tedesco sul rimorchio in rapporto ai carri armati. Diceva che nell'ultimo bombardamento della sezione di sanità il tenente medico Marcello si era prodigato per i feriti, incurante del pericolo, eccetera, eccetera. Eppure ci furono anche in Libia gli eroi, candidi, soldati, umani. Chi non abbandonò l'amico, chi morì per nulla, sapendolo. Puro gesto senza ideale. Se non quello umano, gentile, nello specchio del destino che lo guardava. Senza fiamma, alcuni furono eroi. Si vide anche cosa poteva dare un uomo senza patria, vilipeso, afflitto per 20 anni da una bestiale tirannia, eppure rimanere ancora gentile. Quando essere davanti alla morte, sfumare l'odio, ed essere uomini che hanno un destino, è solo quello. Un nobile soldato senza bandiera, non c'è di più triste, e che una bandiera non si può fare. Ebbene, ci furono. Claudio Bigagli ha letto Il deserto della Libia di Mario Tubino, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, regia di Francesca Zammarelli. Ad alta voce @rai.it